Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, eccoci qui alle 13 minuti in questo secondo, in questo 4 di gennaio 2017, attenti noi due, ancora per qualche giorno in attesa che torni il nostro amico, per me fratello e comunque per tanti punto di riferimento, Alessandro Milan. E vado subito ai santi del giorno, ma immediatamente però vi dico, se volete telefonare, di cosa poi ci occupiamo con gli ospiti, per chiamare all'800240024, lo sapete, per gli sms 349-238-6666. Oggi ci sono, e gli ospiti rispecchiano questa gerarchia delle notizie, per così dire, due grandi temi tra i tanti toccati dai giornali, ma insomma due temi dominanti. Il primo è quello dei temi e delle polemiche sollevate da Grillo e dai 5 Stelle, innanzitutto con il loro nuovo codice votato ieri in rete e a maggioranza approvato di coloro che si sono espressi, dei militanti dei 5 Stelle, il nuovo codice dei 5 Stelle, quello per il quale non ci sono dimissioni automatiche con avvisi di garanzia agli eletti e né con avvisi di chiusura delle indagini. Resta invece in caso di rinvio a giudizio, e c'è poi una valutazione caso per caso della gravità delle vicende giudiziarie che viene avvocata ai capi del movimento, anzi al capo del movimento, ai Probiviri. Ne abbiamo già parlato ieri, enorme scia di polemica perché c'è la maggioranza di coloro che rinfacciano i 5 Stelle di fare una retromarcia contraddittoria rispetto ai principi totalmente inflessibili della storia della nascita del movimento. Ma a questo primo tema se ne è aggiunto ieri un altro, cioè quello sull'informazione, con l'uscita durissima di Grillo che ha invocato i tribunali popolari sull'informazione, Enrico Mentana, direttore del TG7, che l'ha querelato, e tutti questi due temi si intrecciano sui giornali italiani. Noi abbiamo un ospite tra poco del Movimento 5 Stelle, deputato del Movimento 5 Stelle, e quindi ne parliamo direttamente con lui, ma io vi invito fin da adesso a chiamarci per dirci quello che pensate, favorevoli o contrari alla svolta garantista per quello che riguarda gli avvisi di garanzia da una parte, dall'altra cosa pensate dei tribunali popolari invocati da Grillo per il giudizio sulla informazione. E questo primo tema. C'è poi un secondo tema, e questo lo trattiamo più avanti nel corso della trasmissione con un altro ospite, in questo caso con un sindaco, perché quello che è accaduto a Cona, cioè il centro per migranti a Venezia, con la loro protesta, e ne parleremo a fondo perché è una protesta che, è, cari ascoltatori, dura vendere come i viziati immigrati, cioè è semplicemente un centro che esplode perché ha un numero ipermultiplo di immigrati che ospita rispetto ai posti che dovrebbe invece sulla carta garantire. Quindi la classica situazione sfuggita dal controllo, ma quello che vi chiedo è: siete favorevoli o contrari ad aprire un centro di identificazione ed espulsione in ogni regione? E questo, in sintesi estrema, il piano del nuovo ministro Minniti, che ieri è andato a Tunisi a confermare l'accordo per i rimpatri in Tunisia, e la proposta del ministro dell'interno, che è fortissimamente, radicalmente diversa rispetto a come si è comportato Alfano nei mesi precedenti, è quella di dire agli enti locali: cari signori, mi sono un po' rotto la scatola, quindi in ogni provincia il comitato provinciale della sicurezza, quindi con voi sindaci rappresentati dentro, mi fa il sacrosanto favore di fare due cose. Primo, tentare di identificare le decine di migliaia di immigrati che noi continuiamo a far finta di non vedere, che sono in circolo e non dovrebbero esserci nel nostro territorio, visto che non hanno diritto all'accoglienza. Gli abbiamo dato il foglio di via e in realtà non li mandiamo via davvero. Secondo, si riapre un centro di identificazione ed espatrio in ogni regione italiana. Questa posizione, in realtà, come vedete dai giornali italiani, ha una particolarità che non piace più al PD che all'opposizione. Sono molti i presidenti di regione, Enrico Rossi della Toscana, la Serracchiana del Friuli Venezia Giulia, i sindaci importanti del PD, che dicono: questa strategia di Minniti è sbagliata, non li vogliamo i centri di identificazione ed espulsione, non hanno funzionato. Vi chiedo cosa ne pensate, e avremo un sindaco che è anche vicepresidente dell'ANCI per parlarne. Quindi questi i due temi, diciamo così, che ho identificato tra i tanti e i diversi come quelli più rilevanti. Quindi chiamateci e dateci la vostra opinione all'800 24 0024. Santi del giorno: Sant'Angela di Foligno, una grande mistica, morta nel 1309 con la passione per San Francesco, poi morti marito e figli, entrata dopo aver donato tutti i suoi beni anch'ella nei terziari francescani, una grande figura, insomma, per la Chiesa umbra e non solo umbra. E tra i tanti altri santi del giorno ne scelgo una perché lei è la fondatrice della prima congregazione cattolica negli Stati Uniti all'inizio dell'Ottocento, nel 1809, le Sisters of Charity, e si tratta di Santa Elisabetta Anna Bailey Seton. Tra gli altri santi minori, parecchi vescovi: San Termete, San Caio, San Ferreolo, San Rigoberto, auguri a chi si chiama così. E tra gli avvenimenti accaduti nella storia in questo 4 di gennaio, in particolare ne ricordo due. Nel 1947, oggi, veniva ucciso dalla mafia a Sciacca una figura sindacale, il segretario della Camera del Lavoro, si chiamava Curso Miraglia, che proprio per il suo impegno antimafia disse una frase che poi è diventata una bandiera che a me piace sempre ricordare, cioè è l'autore, l'assassinato Miraglia, della frase che avrete sentito parlare, ripetere innumerevoli volte: meglio morire in piedi che vivere in ginocchio. Ecco, era comunista, era segretario della Camera del Lavoro ed è morto perché pensava davvero che bisognasse opporre alla mafia una testimonianza concreta nella Sicilia occidentale. E poi rendo anche un tributo: nel 2015 muore in questo giorno Pino Daniele. A me Pino Daniele, anche se mi aveva lasciato perplesso all'inizio della sua carriera, alla fine me ne ero un po' innamorato musicalmente. Auguri a chi compie gli anni oggi. Naturalmente solo due esempi molto diversi per i mestieri che fanno: l'attore Fabrizio Bentivoglio, secondo me uno dei migliori attori italiani, e il dirigente politico del PD Roberto Speranza, che come sapete in realtà è un alter candidato alla segreteria rispetto a Renzi, ma insomma fa gli anni oggi. Allora, rispetto ai temi che vi ho già segnalato, quelli sulla libertà di informazione e quelli sul garantismo dei 5 Stelle e quelli della strategia anti-immigrazione di Minniti, vediamo che cos'altro segnalare sui giornali di oggi. Allora, io innanzitutto oggi c'era una rubrica che facciamo con Alessandro Milan, l'Oscar del giorno. L'Oscar del giorno lo attribuisco a una serie di interventi ospitati oggi dal Foglio, ma in particolare proprio sul tema della libertà di informazione, a un lungo articolo che io spero molti di voi avranno il tempo e la voglia di leggere, del professor Carlo Alberto Cannavale Maffè, perché la mia opinione in sintesi è che bisogna dire no grazie sia ai tribunali popolari per giudicare l'informazione, no grazie soprattutto anche all'idea e parimenti grave di chi ha proposto censore di Stato. Ecco, l'articolo di Carlo Alberto Cannavale Maffè è una risposta articolata, molto rispettosa ma molto articolata, esattamente all'intervento in proposito del presidente dell'antitrust Pietro Uzzella. Quando in un paese il presidente dell'antitrust Pietro Uzzella si mette a dire e a proporre, lo ha scritto sul Financial Times oltre che sul Corriere della Sera, che occorre un'agenzia pubblica che stabilisca se un'informazione è vera e falsa, perché non bisogna immaginare che i suoi fruitori, cioè milioni di lettori o di ascoltatori, abbiano il tempo e il modo davvero di verificarla, poveretti, e quindi la facciamo verificare da un'agenzia pubblica. Ecco, allora vuol dire che qualcosa si sta potentemente rompendo nell'ABC del rispetto che bisogna avere per la libertà. Per la libertà, caro presidente dell'antitrust. Allora, l'articolo di Carlo Alberto Canale Maffè sostiene appunto che le tesi di Petruzzella sono da rigettare sia nelle premesse che nelle proposte. La risposta alle fake news è la buona informazione, non è la censura di Stato, non è tantomeno quella dei tribunali popolari giacobini proposti da Grillo. Ma la differenza è che Grillo, come i politici, esprime le sue opinioni da anni su questo. Se lo fanno i pezzi delle istituzioni, capite che è profondamente e significativamente diverso? Diverso. Cosa mettiamo? Lo Stato a fare il discrimine di cosa si pubblica e cosa non si pubblica? E soprattutto, cosa facciamo allora delle tante menzogne diffuse istituzionalmente dalla politica istituzionale nel nostro paese? Guardate che sono innumerevoli, non è che ci sono solo le scie chimiche, che a me fanno ridere, per chi ci crede, e l'ossessività di campagne come quelle contro gli OGM o contro i vaccini. E la politica è fatta dai tempi della terra del V secolo di menzogne contrapposte, e questo negarlo e attribuire allo Stato l'idea che a quel punto si mettono alla berlina sono le tesi di una parte contro l'altra, beh, questa è una cosa pericolosissima. Quindi Carlo Alberto Canavale Maffè ha il merito di ricordare, primo, che il mercato delle notizie false è sempre esistito; secondo, che esistono degli strumenti per cui attraverso il vaglio di aiuti tecnologici, gli algoritmi di selezione delle notizie e delle conferme delle notizie, chiunque può in realtà dotarsi di strumenti di verifica in rete di quello che legge se non lo convince, ma che comunque la selezione editoriale su fonti aperte come quelle della rete, che non sono testate giornalistiche e non possono diventarlo, capite che Facebook non può essere il mega direttore di un giornale che controlla ogni parola che viene pubblicata su Facebook, a differenza di quello che pensano molti di voi. Ecco, Carlo Alberto Canavale Maffè ha un grande merito oggi, quello di ricordare al Presidente dell'Antitrust che non solo i lettori e ogni cittadino ha la testa che può usare liberamente, ma secondo, che se pezzi dello Stato ci vengono a dire che è lo Stato che deve fare un vaglio che i cittadini non sono in grado di fare, è finita, perché siamo già entrati nell'autocrazia. In nome della lotta al falso diventa l'inquisitore di Stato. Viva Carlo Alberto Canavale Maffè, che lo scrive così chiaramente, perché ovviamente, insomma, non è facile prendere per la collottola un'autorità istituzionale. Peraltro il professor Petruzzella, col quale è difficile non essere d'accordo moltissime volte. Segnalo anche sul Foglio oggi, devo dire, doppia segnalazione, perché c'è una doppia pagina relativa a una roba che a uno come me ha lasciato abbastanza senza parole, cioè l'intervista di una pagina intera che giorni fa al Corriere della Sera del ministro Carlo Calenda, in cui annunciava diciamo delle idee un po' diverse dal solito per chi lo conosce, dicendo sì, abbiamo bisogno di più deficit e debito, no, non abbiamo bisogno di esporci nudi alla globalizzazione, facciamo un po' di sano protezionismo, difendiamo le aziende italiane, ok, gli odiati francesi, quello che volete, Mediaset era un ponte anche verso Berlusconi, la difesa di Mediaset, diciamolo chiaro. E tra le tante opinioni spiegate dal Foglio ce ne sono moltissime critiche di molte persone che io considero, se avessero maggior peso il dibattito pubblico italiano sarebbe appunto meglio per l'Italia, ma questa è una mia opinione, come il professor Sandro Brusco, come Franco De Benedetti, come il professor Ugo Arrigo, ma insomma vale la pena di leggerla oggi. Naturalmente ci sono anche voci favorevoli invece al protezionismo di Carlo Calenda. Giulio Sapelli dice facciamolo premier subito, per esempio, però Giulio Sapelli è da sempre, non fa mistero di considerare quelli come me, chi la pensa come me, gente che sbaglia tutto con il suo liberismo, eccetera eccetera. Ci vogliono leader forti e misure forti. A questo proposito, lasciate che vi dica anche che sui giornali italiani una cosa mi lascia molto perplessa. Sapete, e trovate comunque sui giornali italiani oggi tantissimi articoli dedicati a quello che è avvenuto negli Stati Uniti. Ieri la Ford ha dato ragione a Trump, cioè la Ford ha improvvisamente annunciato di desistere da 1.600.000.000 di dollari di investimento previsto in Messico e di concentrare invece 900 milioni di investimento negli Stati Uniti, in Michigan. E tutti gli articoli, e qui ovviamente ciascuno lo fa col suo punto di vista, ci sono i giornali di destra filo Trump, c'è Repubblica con Rampini che gli spara addosso, dicono è la vittoria del protezionismo. adesso, non per fare lo spaccacapelli, ma io credo che non è il protezionismo, sono i primi effetti del fatto che le grandi corporations americane si aspettano proprio che Trump, la grande riforma fiscale che ha annunciato, alle imprese la faccia. Cioè, si tratta di abbattere di 20 punti, cari ascoltatori, l'aliquota sull'IRES dal 35%, che oggi è l'aliquota negli Stati Uniti per il reddito sulle imprese rispetto al risultato lordo, scendere al 15%. E con quei 20 punti in meno, le multinazionali americane, che hanno parcheggiato quasi 2 trilioni di dollari all'estero per non subire quell'aliquota, perché se rimpatriassero subirebbero quell'aliquota, iniziano a crederci e a staccare le cedole, per così dire. Questo è il punto di fondo. Temo che sia molto più importante questo fattore qua. Però i giornali italiani, per così dire, lo annullano, come se non fosse questa la grande motivo per cui, tra l'altro, come si è visto in borsa, molti settori dell'economia reale, eccetera, eccetera, sono potentemente convinti che la crescita media americana passa al 3,5% in corso, 3,5%. Avercelo al 4% e oltre. Queste sono le attese di tutti i forum internazionali sugli Stati Uniti di Trump, soprattutto per questa riforma qua, che rimpatria centinaia di miliardi di dollari da reinvestire delle multinazionali americane sul mercato domestico, ergo ecco scelte come quella annunciata da Ford ieri. Però io vi do questo mio contro punto di vista. Aggiungo un ultimo accenno: la Turchia, come incompetenza delle indagini, molti scrivono come la Germania, visto che il famoso cinese uguro di ieri mattina è diventato un kirghizo, poi arrestato e poi lasciato andare, come responsabile dell'attacco al Reina la notte di Capodanno. E io mi limito a segnalare che anche in Turchia molti iniziano ad avere dubbi su questa gestione da parte del regime di Erdogan, sia dei flussi di informazioni che di questo apparire e scomparire di voci che vengono avvalorate con grandissima forza e dopo poche ore spariscono nel nulla, per così dire. Ecco, e da questo punto di vista, quindi, se dovessi indicare una lettura particolare, direi che quella del giornalista Karan, Seide Karan del Cumhuriyet, che trovate sul Corriere della Sera, è quella che vi spiega come può farlo senza rimetterci la testa, per così dire, come può fare una giornalista turca, che in realtà questa gestione ci dice che il regime in Turchia non è solo da una parte non più in pieno controllo dei servizi di sicurezza, dove ci sono pezzi di islamismo diverso oramai, e non solo del partito di Erdogan che comandano, ma sia deliberatamente anche una macchinazione che scatta ogni volta per creare molta confusione voluta sulle matrici e per alimentare dubbi su, tra virgolette, i regimi, i nemici del regime, piuttosto che sui veri autori di una strage come quella di Capodanno. Allora, ci sarebbero tanti altri temi, ma vediamo se poi più avanti ho la possibilità di toccarli. Adesso andiamo invece a uno dei due temi centrali della giornata, perché è con noi il deputato dei 5 Stelle, membro della Commissione Affari Costituzionali, Danilo Toninelli. Buongiorno e grazie. Buongiorno Giannino e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, due temi su cui insistono le domande, ma questo lei lo immaginerà. Il primo è la svolta avvenuta con il voto ieri in rete degli attivisti del movimento sul codice per eletti politici dei 5 Stelle, con raggiunti da eventuale avviso di garanzia di inizio indagine e quello di chiusura indagine. E niente, dimissioni automatiche, inizio dove non fa la parte del cattivo, dicendo, e la risposta che i 5 Stelle preventivi e soprattutto Grillo danno agli avvisi di garanzia in arrivo per la Raggi. Vero o falso? Assolutamente falso, Giannino. È una qualche cosa che abbiamo scritto, che già era nei fatti, perché tu sai che abbiamo sempre protetto e difeso i nostri portavoce, sindaci e quant'altro, che prendendo decisioni coraggiose non per se stessi ma per l'interesse della collettività, ad esempio, venivano indagati anche e soprattutto sulla base di esposti fatti dai nostri avversari politici. Noi diciamo una cosa netta, diciamo che c'è una differenza tra la responsabilità penale e la responsabilità morale. Nel Movimento 5 Stelle basta la responsabilità morale per essere cacciati. L'abbiamo sempre fatto, lo diciamo, mettiamo nero su bianco, tutti devono rispettare questo, ma diciamo anche che agli altri vecchi partiti, che mi sembra che siano stati presi da attacchi di panico, che il codice etico dovrebbero scriverlo anche loro, votarlo anche loro e applicarlo a se stessi, perché se l'avessero fatto, diciamo, in questi ultimi anni ci sarebbe stata meno mala politica. Io penso semplicemente questo, da vecchio osservatore della politica, che molti mi hanno deriso per averlo ricordato, perché sostengono che non tutti i fenomeni sono paragonabili, però io ricordo quando Craxi toccava per una volta a Milano, disse quello è un vecchio Mariuolo, poi cambiò drasticamente idea quando ha toccato lui il vertice del suo partito. Ho visto innumerevoli volte la sinistra dal PC al PD cambiare idea sull'analisi e il peso degli avvisi di garanzia in politica. Cari ascoltatori e lettori del PD, sapete che è così. Sapete, è così. Quello che si applica ad alcuni dirigenti del PD, c'è gente che si è dimessa dal governo senza avviso di garanzia, e ci sono fior di eletti del PD alla testa magari di regioni fieri dei processi e degli avvisi di garanzia per abuso d'ufficio, come per tante altre cose. Quindi sapete che è così. La Lega all'inizio, ve la ricordate, la Lega di tanti anni fa cambiò drasticamente poi idea quando venne. Allora io dico che un po' di realismo attraverso un processo fatto in pubblico come quello dei 5 Stelle a me sembra più apprezzabile la strisciante ipocrisia che vediamo da tanti anni su questi argomenti. Però a questo punto, seconda domanda a Toninelli, ci sono quelli che dicono bene, però a questo punto, per esempio, con quelli come Pizzarotti e così via, questo nuovo codice di regole implica una revisione del giudizio o no? Ma guarda Giannino, sinceramente non mi è mai piaciuto parlare di casi particolari, nel senso che parlando di casi particolari perdi di vista l'obiettivo. Per me è fondamentale dire che nel Movimento 5 Stelle si rispetta il principio sancito dalla Costituzione che chi assolve funzioni pubbliche lo deve fare con disciplina ed onore, che non è una responsabilità penale, perché se noi veniamo a sapere attraverso intercettazioni che riguardano uno dei nostri, che non hanno rilevanza penale, ma che dimostrano che manca moralità ed etica in questa persona, noi lo cacciamo, mentre gli altri purtroppo notiamo che non fanno questo, anzi guardano prima il potere politico della persona, vedasi il caso di De Luca, che tiene tantissimi voti in pancia, si dimenticano delle responsabilità morali, come le minacce di morte ad esempio alla collega del Partito Democratico Rosi Bindi o i nostri esponenti, alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, e poi vediamo l'ex Presidente del Consiglio in piena campagna elettorale per il referendum andare ad abbracciarlo e dargli i pacchi sulle spalle, perché in quel territorio della campagna il Presidente De Luca teneva in pancia, teneva molti voti. Ecco, noi diciamo che non è accettabile questo. Se uno riceve un avviso di garanzia dei nostri, anche se è conseguente di una denuncia di un avversario politico, lo deve comunicare immediatamente, lo deve fare con trasparenza. Abbiamo detto che abbiamo una struttura di garanti, questa struttura di garanti, di collegi, di probiviri che sono stati votati dagli iscritti, non decisi da una persona, che cosa fanno? Valutano caso per caso, ma ripeto, deve venire prima la responsabilità morale, la politica deve smetterla di autoassolversi e di essere autoreferenziale, almeno nel Movimento 5 Stelle è così. Noi non vogliamo, rigettiamo le critiche di tutti gli altri partiti e le invitiamo a fare altrettanto, però pensiamo, Giannino, che queste reazioni così veementi nei nostri confronti siano proprio il frutto di una paura di farsi del male, se non addirittura di scomparire in parte, nel caso in cui applicassero a se stessi le stesse regole che prima nei fatti e ora nero su bianco il Movimento 5 Stelle applica a se stesso. Poi tutto è perfettibile, ma siamo felici, Giannino, che oggi si parli di codice etico che dovrebbe essere applicato indipendentemente dalla legge ai partiti tutti, che se lo devono auto applicare all'interno delle pubbliche amministrazioni, in tutti coloro che toccano direttamente o indirettamente la cosa pubblica, perché diciamocelo chiaramente, il problema della corruzione, della collusione, della clientela è prima di tutto un problema morale che diventa un problema penale. Partiamo prima dalla rilevanza morale, così iniziamo a levarci dalle scatole coloro che a livello di moralità o di etica sembrano non essere i migliori, così vedrete che non sfoceranno dall'immoralità all'illegalità. Allora, andiamo invece al secondo tema. Io faccio la domanda, poi andiamo in pubblicità e Torinelli mi dà la risposta. Il secondo tema è quello del vaglio delle informazioni. Grillo ieri ha sparato con l'artiglieria ad alzo zero. Mentana ha deciso di querelarlo, ma il problema è il fondo della questione. È ovvio che evocare i tribunali popolari, ma mi sembra una cosa che primo mi lascia totalmente contrario, ma non è questo il punto. Il problema è che io la prendo come una maniera politicamente provocatoria, visto che non immagino davvero che 5 Stelle si mettano a organizzare tribunali del popolo, ma una maniera provocatoria per indurre a una riflessione sulla responsabilità di chi fa l'informazione. E la mia domanda diventa: nell'informazione è ovvio che contano i punti di vista. Io il mio l'ho sempre dichiarato, altri fanno ipocritamente finta di non averlo e poi lo perseguono tutta la vita, ma il punto è: è possibile dal vostro punto di vista continuare a dire che tutti sono dei falsificatori nel sistema dell'informazione italiana? Perché Grillo ieri ha detto questo. Ecco, io non ho capito il senso, continuo a non capirlo perché Grillo lo dice da anni, a dire la verità. Quindi chiedo a Torinelli, mi dà un'interpretazione vera di questo fatto? Che senso ha da parte vostra dopo anni nelle istituzioni, vittorie amministrative, la paura che hanno altre che vinciate e governiate a livello nazionale, continuare a dare giudizi di questo tipo sul sistema dell'informazione italiano? La risposta dopo il traffico. 24 mattino, attenti a noi due. Eccoci qua, era la pubblicità, non il traffico, furia di andare in onda in ore diverse, gli automatismi mi scattano diversamente. Allora, Torinelli, ma insomma, da una parte io dico assolutamente no alle censure di Stato e con me molti altri colleghi, anche se rimango senza parole a vedere il presidente dell'antitrust Pitruzzella che invece dice che ci vuole la censura di Stato. Mi chiedo veramente a questo punto dove vogliamo andare. Però dico anche no all'idea dei tribunali popolari, ma invece le chiedo, se dopo anni e la crescita che avete nei consensi, nelle responsabilità amministrative, politiche, fate paura, insomma è ovvio, al sistema dei partiti, perché potreste vincere, per questo vogliono cambiare la legge elettorale. Detto tutto questo, mi spiega che senso ha continuare ad avere a esprimere un giudizio come quello che ha espresso Grillo ieri, totale, di condanna totale al sistema dell'informazione italiana? Perché, Torinelli? Allora, innanzitutto la nostra è una reazione a quella, io non so come chiamarla, follia del presidente dell'antimonopolio, dell'antitrust, Pitruzzella, che parla di un ministero della verità e del fatto che le maggiori cariche dello Stato, oltre che ovviamente anche i partiti di sistema, l'abbiano avallata. Innanzitutto mi sembra che Pitruzzella sia il garante del mercato e non sia il garante del, non lo so, dei dati personali o il garante della comunicazione. Quindi già mi pare che mi viene la domanda da dire: ma il mercato che paura ha dei cittadini? E su questo la siamo d'accordo. Tu hai detto una cosa corretta, è una provocazione, evidentemente, anche se è una provocazione che va valutata, perché la domanda che sorge spontanea è meglio o peggio un tribunale gestito dagli stessi che l'hanno proposto, cioè dall'apparato statale che vuole imbavagliare la democrazia, o un gruppo, una giuria popolare di cittadini che giudica esternamente che quello che viene fatto dagli organi di informazione? Quindi anche lì starei molto attento. Ma la cosa che è fondamentale è che si debba tornare a parlare di informazione, di libertà in un paese che oggi è superato dal Burkina Faso nella libertà di informazione. Su non questo, perché i giornalisti sono dei delinquenti, per l'amor del cielo, ecco, ma perché i giornalisti non sono liberi di fare su con questo la giusta... sai che molti dicono che è per colpa vostra, per le minacce che esercitereste nei confronti dell'informazione. No, ma io mi limito in questo, devo fare quello che la parte del cattivo che vi senza frontiere hanno indicato abbastanza chiaramente le motivazioni dipendenti da ingerenze private, di interessi privati. Sappiamo chi sono gli editori di molte testate, dal fatto che ci siano anche interventi di natura governativa. Il problema dell'indi, ma noi non ce l'abbiamo con i giornalisti, ma ci mancherebbe altro, anzi capiamo la difficoltà con cui oggi un giornalista possa fare il proprio mestiere, soprattutto se vuole rimanere indipendente intellettualmente in quello che scrive, ecco, perché rischia di perdere il lavoro. Quindi noi diciamo, ma invece che attaccare noi, ma io ieri ho anche ascoltato e letto la nota stampa della Presidente dell'Ordine dei giornalisti. Ma noi accettiamo di essere criticati, siamo contenti di aver aperto un dibattito, ma un mea culpa, uno straccio di mea culpa da parte dell'Ordine dei giornalisti, di accusa nei confronti di coloro che limitano l'indipendenza e la professionalità dei giornalisti? No. E a noi fa molta paura questo, perché vorremmo che l'Italia spiccasse in libertà di informazione, e abbiamo paura perché i dati ce lo dicono, che ci sia la volontà di essere asservita a una parte di sistema politico che ha messo, ma non perché c'è il vantaggio, ma perché oggi lei, tu sai che la riforma, la struttura direttiva della RAI è nominata dal governo, abbiamo questo mega amministratore delegato fantozziano con ultrapoteri che è ad all'orco, che non so se avete notato, ha portato le dimissioni quel Verdelli, che era il direttore, colui che aveva la responsabilità della linea di informazioni. Allora, non andiamo anche su questo. Io ringrazio Danilo Toninelli per il tempo che ci ha dedicato. E, insomma, io, come sentite, gliel'ho chieste dura le cose, nel senso che è una provocazione. Lui ha detto che è una provocazione ed è una risposta agli attacchi che sono venuti dal fatto che manchi autocritica all'informazione, e anche sul codice di garanzia, ripeto, per me da garantista è meglio così piuttosto che prima. Poi capisco che moltissimi ascoltatori pensano essere tutto strumentale. Ti sei schierato anche tu? No, io semplicemente le guerre, se permettete, non le faccio facendo questo mestiere. Tra l'altro, oltre a ringraziare Toninelli, guardate che la vicenda della RAI è una vicenda scandalosa davvero, come è vero che è duro fare questo mestiere se volete parlare di banche e finanza in grandi gruppi editoriali, perché io ho beccato un licenziamento disciplinare, poi mi hanno pagato in tribunale, però il giornale che dirigevo me l'hanno chiuso, perché parlavo di una grande banca italiana di cui ballava il capitale, il patrimonio di vigilanza. E criticare le collusioni dei regolatori con prassi molto disinvolte che ci hanno portato all'esplosione dei problemi bancari aperti ancora adesso, per cui c'è il decreto Gentiloni dopo mesi passati a dire dal governo precedente che questo sistema era sano e uno dei migliori del mondo, dipende da quello, e troppi autorevoli colleghi poi alla fine ripetono invece ciò che fa abbastanza comodo a questo esteso meccanismo collusivo in cui ci sono anche imprenditori e non solo manager bancari e azionisti bancari, visto che nel capitale delle imprese, nel capitale delle banche, gli imprenditori ci sono, cioè sono tutte cose vere, ma la cosa della RAI avvenuta ieri, secondo me, avrebbe meritato sui giornali oggi qualche riflessione specifica più approfondita. A me è piaciuto molto il pezzo di Sebastiano Mestine su Repubblica oggi, ma guardate che, visto che c'era stato promesso alla Leopolda due reti cedute al mercato e una con solo canone e una governance aziendale fuori dai partiti, sapete che Renzi ha fatto l'opposto, ha fatto una legge in cui si mette all'ordine del governo l'azienda. Dopo le nomine discusse, i rilievi dell'ANAC perché nelle nomine non sono state osservate le leggi vigenti, dopo la protrazione per l'ennesima volta del contratto di convenzione del servizio pubblico senza alcuna discussione su cosa sia un servizio pubblico, dopo il regalo nel mille proroghe per portare fuori di nuovo la RAI fuori dal perimetro della PA in cui l'aveva messo Istat per dare alla RAI più mani libere su gare, contratti ed emolumenti, arriva la bocciatura dopo un anno e mezzo del piano editoriale a cui avevo lavorato Verdelli, perché in realtà è la presidente Maggioni a bocciarlo per prima, perché non si vogliono toccare le sedi periferiche, le 21 sedi periferiche della RAI, perché naturalmente è potere, no agli accorpamenti nelle macro regioni, il TG2 a Milano, ma perché? Freccero, da un altro punto di vista, nella sua intervista a Repubblica spara a zero, però il problema è che a mio giudizio un'azienda che dopo aver cambiato la governance dopo un anno e mezzo si autoribalta in questo modo, perché Michele Ansaldi, commissario, membro della commissione di vigilanza del PD, dice dovremmo chiedere scusa agli italiani perché era meglio Gubitosi. Ecco, io la penso come Ansaldi, ma in un paese normale questo vertice RAI dovrebbe andare a casa con un bilancio di questo tipo, invece naturalmente non avverrà. Però ecco, stiamo parlando della servizio pubblico italiano in un paese in cui Pitruzzella ci dice che è lo Stato che deve vagliare, un organo di Stato che deve vagliare la Fondazione delle Informazioni. Mi viene uno sconquasso da ridere solo a far notare l'autocontraddizione evidente di questi due fattori. Pitruzzella, che voglio ripeto, lo stimo, ma non capisco come abbia fatto questa uscita, da una parte, e dall'altra la vicenda Rai sotto il governo Renzi, a cui io, in coerenza a quello che ci aveva detto la Leopolda, ponevo grande aspettativa su questo tema qua della Rai, su altri temi forse meno, ma su questo sì, e invece è andata all'opposto. Allora, andiamo all'altro tema, perché, cioè quello degli immigrati, che trae spunto da due grandi faccende: la svolta di Minniti agli interni, che dice agli enti locali basta non vedere tutti quanti in Italia le decine di migliaia, si calcola che sono almeno 50.000 dei 200.000 sbarcati in Italia, che record nel 2016, che non avendo diritto per essere considerati né richiedenti asilo e con foglio di via alla mano, noi non espatriamo e non riconsegniamo i loro paesi, e però li perdiamo di vista, per così dire, diventano clandestini. E quando queste cifre di anno in anno si aggiungono in queste proporzioni, e quando poi abbiamo imparato con la vicenda del terrorismo internazionale il caso del tunisino responsabile della strage di Berlino, che era noto agli italiani e noto ai tedeschi per non essere in regola, eppure ha rimbalzato per l'Europa e poi ha fatto quello che ha fatto, non possiamo più permetterci, lo dice Minniti e quindi dice ai sindaci. Ora riradichiamo nei comitati provinciali di sicurezza tutto il ragionamento sull'identificazione dei clandestini, riapriamo in ogni regione il CIE su questo, e il PD con presidenti di regione, Enrico Rossi della Toscana, la Serracchiana in Friuli Venezia Giulia, con importanti sindaci a dire: ma Minniti, ma che ti dà di volta il cervello? Noi CIE non li vogliamo. E di fronte a questo succede la vicenda del centro di Cona a Venezia, scopriamo che sono 7-8 volte rispetto a quanto dovrebbero essere lì, il solito centro gestito da una cooperativa buttata fuori persino da Confcooperative perché accusata di disinvoltura, pochissimi addetti rispetto alle centinaia di immigrati stipati lì. E allora a questo punto mi sono detto: sentiamo un vicepresidente dell'ANCI per capire, primo, come sindaco, come la pensa di questo riradicamento e coinvolgimento dei sindaci nella gestione del fenomeno dell'immigrazione? Secondo, se ci crede all'idea che rimoltiplichiamo con oltre 20 CIE una struttura che invece la sinistra fino a questo momento ci diceva che andava chiusa perché era il segno della sconfitta di un atteggiamento verso gli immigrati solo volto alla durezza contenitiva, mentre invece bisogna integrarli. Però a oggi nel sistema SPRAR, l'unico per integrazione, c'è ancora solo una minoranza degli immigrati, e quindi ho chiamato il sindaco di Ascoli, vicepresidente dell'ANCI, Guido Castelli. Grazie di essere con noi. Buongiorno Giannino. Ma le dico subito che io ho accolto con favore le dichiarazioni di Minniti, con favore ma senza troppo ottimismo, perché è vero che i CIE non sono di per sé la panacea di tutti i mali, perché bisogna aggiungere all'idea di moltiplicarli, di riportarli a 20, molto altro, perché sennò diversamente sarebbero dei centri di contenimento che non risolvono i problemi. Mi pare che Minniti abbia segnato una discontinuità rispetto al tutto va bene madama la marchesa, che fino adesso aveva connotato un po' la politica del Viminale. Ecco, cosa bisogna fare in più per evitare che sia solo un annuncio, una norma manifesto, quella della riapertura dei CIE che avevano introdotto, pensato Livia Turco e il presidente Napolitano, lo dobbiamo dire, no? Anche alla sinistra che insomma si alza e le barricate contro quella parte della sinistra, perché Minniti, fino a prova contraria, è del Partito Democratico. Innanzitutto bisogna fare in modo che questa possibilità di rimpatrio sia resa possibile, perché sennò i CIE diventano dei pentoloni a pressione. Ricordiamo che noi abbiamo solo 5 paesi dello stato attuale con protocolli operativi per l'accordo bilaterale sui rimpatri, 5 rispetto agli 85 paesi da cui arrivano, 85 davvero da cui arrivano i 200.000. Ok. E questa è la prima cosa, nel senso che mi pare di aver capito che il ministro Minniti sta andando proprio in questi giorni in Tunisia e a Malta, però diciamo che anche il ministro degli esteri, per quanto abbia, come dire, superato la problematica per quanto riguarda il suo impegno personale, parlo di Alfano, rispetto all'immigrazione dovrà farsi parte diligente, come si dice il linguaggio burocratico, perché si arrivi tendenzialmente ad accordi con il massimo numero di paesi stranieri. Il secondo tema però è che i CIE non serviranno a niente, neanche se portati a 20, nel caso in cui non si cambia anche il reato di immigrazione clandestina e non si perimetri diversamente tutta quella selva di norme burocratiche che oggi rende quasi impossibile il rimpatrio, perché gli stessi uffici di immigrazione delle questure, fra codici e codicilli, spesso non si rendono, come dire, serventi rispetto a questo obiettivo. Senta, io su questo tema che ha toccato, cioè quello del reato, perché ci sono delle specie di tabù, dei fetici a cui le parti politiche contrapposte ciascuna poi rimangono fedeli nella vita e si smarrisce concretamente che cosa abbiamo imparato sul campo. Come i CIE, e io sono d'accordo con lei su questo, dall'origine alla polo ripulsa e ora adesso alla riscoperta e tutta una storia interna all'evoluzione della PD, della sinistra, insomma, perché nascono di là, vengono identificati come disastro da abbandonare soprattutto in quell'area, adesso è Minniti un esponente ex d'Alemiano, visto che D'Alema oramai non abbiamo appreso, non lo stima più nemmeno personalmente, però insomma PD, esponente di punta della comunità della sicurezza, dei problemi dell'ordine pubblico da anni, che li rilancia da una parte, ma dall'altra la destra, quando si arriva al reato di immigrazione della Bossi Fini, ogni volta scatta e dice ah, non si tocca quel reato, che però abbiamo imparato sul campo e ce lo dicono i magistrati, le statistiche dell'ordinamento giudiziario eccetera, in realtà oltre a ingolfare inutilmente gli uffici giudiziari è un'arma spuntata, perché poi in realtà questi restano in Italia e non si succede, e non succede nulla a decine di migliaia. Quando le dice toccare la legge, è un'autocritica su questo o no? Beh, anche in parte un'autocritica, perché rispetto al dogma del reato bisogna vedere come la rilevanza penale di certi comportamenti, al di là del fatto della pena, della sanzione, della detenzione, è propedeutica proprio al rimpatrio. Io ho una visione pragmatica di questa cosa. Esatto. Se vi fosse questa questo stigma, questa qualificazione penale, supereremmo tanti problemi che sono proprio di natura amministrativa e che danno al potenziale irregolare, al potenziale terrorista, diciamolo per un attimo per brevità, anche la possibilità di andare in primo grado, secondo grado e Cassazione prima di poter essere messo dove dovrebbe, ovvero nel il reato è utile per superare le lungaggini amministrative e questa burocrazia che anche in materia di controllo del territorio e di identificazione produce veramente situazioni incredibili. Ma se queste persone, parlo di un richiedente asilo, poniamo che non abbia le caratteristiche e i titoli per essere qualificato come tale, prima di essere chiamato per le verifiche passa un anno. Poi, se viene denegata la sua istanza, bisogna aspettare il suo ricorso, primo grado, secondo grado e Cassazione. Insomma, ma sa quanti candelotti di tritolo piazza sotto le nostre mercatini dell'antiquariato? Questo è il punto centrale. E poi, Giannino, argomento a lei e a me caro. Perché sia effettiva tutta questa procedura e questa pratica, purtroppo ci vogliono soldi. Ci vogliono soldi perché per mettere queste persone dentro gli aerei, per farle andare dove... è un problema importante e questo è il vero punto interrogativo, perché questa roba, per essere anche gestita decorosamente, richiede sforzi economici e qui c'è anche la questione dei sindaci e dei comuni. Ma sa perché molti comuni non aderiscono allo SPRAR, al di là di quelli che sono stati gli stanziamenti e i 600 milioni? Perché anche in termini di velocità di liquidazione delle spettanze ai comuni, spesso e volentieri il criminale ci mette un anno e mezzo prima di liquidare le fatture. Un anno e mezzo. Conto che vuol dire? Io vado in anticipazione di cassa, arriva la Corte dei Conti e mi dà anche qualche mazzata. Quindi, da questo punto di vista, la finanza, ahimè, torna a essere elemento preminente anche per una seria e sana gestione. E vedremo in questo, Minniti, cosa dice, perché questa è una delle ragioni fondamentali. Io concordo molto su questo ultimo aspetto, quello finanziario, perché non c'è solo la pressione dell'opinione pubblica, i sindaci di destra che naturalmente devono mettersi la stella da sceriffo e dire qua io non me li prendo in proporzione alla popolazione, bla bla bla. La questione è che se su 8.100 comuni solo 2.400 oggi, per così dire, aderiscono al protocollo di distribuzione in proporzione alla popolazione, l'aspetto finanziario è molto più importante di quanto non si creda. Quindi su questo vedremo cosa farà Minniti. Io intanto apprezzo molto, per così dire, il realismo, come vedete, che non difende tanto una parte politica ma ammette errori di entrambe le grandi famiglie che si sono alternate a governare questo sistema dai tempi tempi di Martelli, dal 92 in poi. Pensate, del sindaco di Ascoli Guido Castelli, che saluto e ringrazio. Sentiamo, arrivederci. Stiamo rapidissimamente come la pensa Natale da Brindisi. Natale, ci sei? Sì, eccoci, pronto. Eccoci. Buongiorno Giannino, buongiorno sì. A tutti gli ascoltatori. Io volevo giusto fare una piccola riflessione sulla nuova uscita di Grillo. Di Grillo, che è concesso, sì, certo. Se divergo dal tema. No, ne abbiamo parlato per metà trasmissione, di pure. Però mi viene da sorridere questa nuova uscita, in quanto pare che Grillo ormai, sottolineo Grillo e non il Movimento 5 sì. Stelle, in maniera, permettete, scusatemi, quasi dispotica, interviene su questi argomenti. Beh, rivoluzionando quello che era, diciamo, un loro punto di vista fondamentale. Non c'è dubbio, cioè, non c'è dubbio. Questo paradossalmente mi fa pensare cosa? Che lui potenzialmente può domani con un nuovo comunicato dire il contrario. Allora candidiamo anche delle persone passate in giudicate. Tu poni questo, rete, hai questo dubbio. E chi lo sa, Natale? Non lo sappiamo. La verità è però è che chi sta in quel movimento accetta il capo politico. Io non potrei accettarlo, però purtroppo è così. Grazie Natale, controllate solo 24. Appuntamento con me anche alle 4:30 oggi pomeriggio.